11. Il compositore Baldini era diviso a metà, come se un'accetta gigante scesa dal cielo lo avesse tranciato lungo la colonna vertebrale. La metà sinistra era seduta, con la mano ancora posata sulla tastiera del mix e un'espressione assolutamente normale sul volto. Imbalsamato e messo di profilo, forse nessuno si sarebbe accorto che era defunto. La metà destra era caduta qualche metro più in là, aggrovigliata in modo orribile, e uno spasmo di dolore contorceva la mezza mandibola. Shock dell'emisfero cerebrale sinistro e corrispondente parte destra, disse il dottore, così fulmineo che il dolore non ha raggiunto l'altra parte del corpo. Così è la morte per rasoiata di laser. Possiamo dire, disse Atarva, che per metà è morto serenamente. Possiamo, concesse il dottore, mentre con aria professionale intingeva i suoi strumenti nella mezza ragosta dell'emisalma. Atarva consultò febbrilmente i dati degli ultimi lavori di Baldini. Baldini era addetto alla difesa del sistema informatico dai virus, in primis i virus di realtà. Recentemente era alquanto depresso perché un virus misterioso aveva distrutto 90 milioni di informazioni sui campionati di calcio 1960-1980. Per fortuna conosceva i risultati a memoria. L'insuccesso però lo aveva reso nervoso. Ma nessuno avrebbe immaginato quel gesto estremo. «Questo è il messaggio che avete trovato?» chiese Atarva. «Sì», disse il poliziotto, «era sulla stampante del computer». La vendetta sciama. Fa la polizia con diverse voci. Addio Veronica Lake. «Chi ci capisce qualcosa?» disse il capo della sicurezza interna, Capitano Mazza. «Mi sembra tutto chiarissimo. Si è ucciso con il laser disegnatore. Ha invertito il flusso. Sapeva farlo», disse calmo Atarva. «Sto parlando del messaggio. Secondo me voleva dirci qualcosa. Qui c'è lo zampino degli sciama». Atarva si mise a ridere sgangheratamente. Il capitano gli fece cenno di smetterla. «E quella frase sulla polizia? E Veronica Lake?» «Era la sua attrice preferita. Metteva sempre il suo ologramma nei filmati. Aveva anche una bambola meccanica di gomma identica a lei. Ci usciva la sera. Mi ricordo che una volta si sgonfiò a una prima teatrale e il rumore fu assai imbarazzante». «Io dico che questo è un attentato sciama», disse Torvo Mazza e uscì con aria rabbiosa, strascicando la coda dell'uniforme. Atarva rise nuovamente. Diede un'occhiata al parco computeri della sala. Al suo occhio esercitato non sfuggiva un solo particolare. «Perché è così sicuro che non sia un attentato?» disse il dottore. «Non è forse vero che alcuni sciama immigrati clandestinamente stanno preparando azioni contro di noi?» «Verissimo», disse Atarva, «sarò io a occuparmene». «In che senso?» «Dovrò far arrivare gli sciama in città, far loro compiere aggressioni, rapine, attentati, eccetera, ma ancora non ho cominciato, quindi non sono stati loro a uccidere Baldini. Loro sono ancora nel mio cassetto». «Cosa significa?» chiese stupito il dottore. «È semplice. Gli sciama non esistono più. Lei conosce bene gli sciama, crudeli e atei, con le loro pitture di guerra, i loro sfrenati costumi sessuali, le loro malattie contagiose. Da anni la loro guerra fratricida è affettuosamente seguita dai nostri organi di informazione. Guardando i loro massacri, si dimenticano tutte le altre guerre. Tutte le guerre sembrano ragionevoli se confrontate alle atrocità della guerra sciama. Sparandosi i feti incendiati, torturandosi con gas chimici, avvelenando hamburger, acquedotti, plasmon, gli sciama rendono giustizia alle nostre puntuali operazioni di polizia, alle nostre doverose repressioni, alle nostre sacrosante rappresaglie. Guardando una nostra nobile parata militare, possiamo pensare che queste siano le stesse armi usate nella guerra sciama? No, certamente. Vuole sapere la verità, dottore? La guerra, nel paese degli sciama, iniziò 20 anni fa, quando fu scoperta la papara. La papara è un albero masticando la cui corteccia gli sciama sono immuni da infarti, hanno grande potenza sessuale e vivono in media fino a 120 anni. Essendo il presidente degli sciama riluttante a vendere le piantagioni di papara, il nostro paese pensò bene di armare i suoi oppositori. A sua volta, il presidente fu armato da un altro paese. 36 paesi intervennero nella gara di aiuti militari alle fazioni sciama. All'inizio della guerra, c'erano 3 carri armati e mezzo per abitante. La guerra durò 2 settimane. Non sopravvisse neanche uno sciama. La papara si rivelò un fallimento. Quando era già pronto il lancio per il cibo più ecologico della Terra, si scoprì che per ottenere i benefici effetti bisognava mangiarne 5 kg al giorno. Questo, per gli Shama, non costituiva un problema, essendo la papara il loro unico cibo, ma per un civile consumatore occidentale era impossibile, essendo la papara un misto tra una carta assorbente e un baccalà, con vago sapore di fecaloma. Centinaia di tonnellate di papara marcirono nei magazzini, ma sorse un problema ancora più urgente. Come sostituire le crudeli immagini della guerra Shama che tanto benefico ribrezzo avevano suscitato negli spettatori? Come rinunciare a frasi ormai entrate nel gergo corrente tipo «non siamo mica Shama» o «non comportarti da Shama»? Semplice. La guerra fu prolungata con un componimento di realtà. Al materiale di repertorio vennero aggiunte scene filmate in studio. Un'equipe di sceneggiatori militari curò le varie puntate. Da 4 anni la guerra è sempre più frenetica e crudele, ma non esiste. La inventiamo noi ogni giorno. Esistono molte guerre vere, sulle quali possiamo benissimo sorvolare. La guerra Shama invece deve continuare e la prossima puntata, come dice lei, è l'invasione delle nostre città da parte dei sanguinari Shama. Attentati, sabotaggi, omicidi, tutto nel mio cassetto, prossimamente sul vostro schermo. «Balle!» disse il dottore e raccolse in fretta i suoi strumenti, guardando con paura Tarva. Lo aveva sempre trovato strano. Non c'erano le sue note mediche nell'archivio. Nessuno aveva mai visto altro che quel po' di faccia che spuntava dal suo bizzarro abbigliamento. Non era mai stato malato. E forse... ma era meglio svignarsela. Mentre i poliziotti portavano via i resti mortali di Baldini, Atarva scivolò silenziosamente nella saletta dei computer privati. Riconobbe subito il vecchio personal del compositore capo, con la foto di Veronica Lake e i soldatini nordisti. Con un lampo di soddisfazione notò che era acceso su un elenco di linguaggi. Li fece scorrere. Atarian, Atman Micro, Atman Giant, Bold, Chipstone, Defensive Surgeon, Defensive Zero, Deloitte, Het, Elliot One, Elliot Two. Lui fa la polizia con diverse voci, pensò Atarva. La prima versione della terra desolata di Elliot. Elliot One, linguaggio paranoico per falsi discorsi funerei dei capi di Stato, chiave di accesso alle composizioni, 2 parole. Troppo facile. Veronica Lake, batté il dito di Atarva. E sullo schermo, dopo pochi secondi, apparve il messaggio segreto di Baldini. Per chiunque riesca a decifrare il mio testamento, mi uccido, perché non riesco più a sopportare l'orrore degli ultimi filmati Shama. Sono diversi dagli altri. Sta succedendo qualcosa, non so più cosa. Lascio la mia Veronica al dottor Grabinski, perché la metta vicino al suo Schwarzenegger di Pongo. Possa Dio aver pietà della mia anima lercia. Il gerarca è un porco. Addio. Atarva restò impassibile. Con una rapida operazione distrusse per sempre la memoria del testamento dal computer e dalla pietà degli uomini.